giorno. Mi sveglio e sogno, io sogno che dormo. Mi alzo dal letto e bruciato tutto. Rigurgito tutto e tutto è cambiato. Ma il senso dei tuoi perché ti riporta nel mio